Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e bentornato a Fabio Tavelli per la sintesi europea settimanale. Buongiorno Fabio. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Io direi che il primo dato è questo, è molto banale, ma insomma alla faccia di chi sosteneva e magari sostiene ancora che vincere il girone è relativo, sono passate tutte e quattro le squadre che l'avevano vinto e che dunque ha giocato il ritorno in casa. Partiamo da lì. Ma partiamo da lì perché è un ragionamento semplice, però davvero bisogna che anche noi che facciamo questo lavoro ci mettiamo in testa che quando le persone ci raccontano che l'obiettivo è passare il turno e gli dobbiamo sempre chiedere e farci spiegare se davvero ci si possa o ci si debba accontentare del secondo posto o se non si debba puntare al primo, perché è un dato inequivocabile. Una sola squadra che non ha vinto il girone, l'ha vinto una partita in questa diciamo prima tornata. Pensate anche solo allo Shakhtar, che ha vinto il suo girone e ha pescato la Roma. Se non l'avesse vinto avrebbe pescato il Barcellona. E davvero quando ci fu il sorteggio tutti fummo abbastanza soddisfatti, perché Tottenham di Monaco, che ancora deve essere affrontato al 50%, e Shakhtar sembravano avversarie tutte abbordabili, o quantomeno con un favore del pronostico per l'italiana, e poi già due super se ne sono andate, quindi bisogna stare veramente attenti già dalla fase iniziale. Io aggiungerei questo, e cioè che il calcio italiano deve davvero interrogarsi, e anche il Milan, visto che si parlerà tanto di Milan oggi, deve interrogarsi se una stagione nella quale il viaggio europeo ha portato solo due vittorie contro l'Auxerre all'andata e ritorno, e non ci sono stati altri successi né col Tottenham né con l'Ajax né col Real Madrid, se si può pensare legittimamente di fare della strada in Europa. Aggiungo anche che in questa seconda fase delle competizioni europee, se facciamo Europa League più Champions League, abbiamo due partite del Milan, due partite della Roma, due partite del Napoli e fanno una dell'Inter, fanno sette, zero vittorie. Questi sono fatti, non sì, sì, certo. sono fatti inequivocabili, insomma. Focalizzando sul Milan, c'è un altro fatto inequivocabile che mi ricorda Franco Piantanida. Allora, dopo la Coppa dei Campioni del 2007, nel 2008 il Milan è andato fuori con l'Arsenal 0-0 a Londra e 0-2 a San Siro. Nel 2009 con il Werder Bremen, sempre ai sedicesimi, 1-1 in trasferta e 2-2 a San Siro, vincendo 2-0 fino a metà del secondo tempo. E quell'anno il Werder arrivò decimo in Bundesliga. L'anno dopo Milan-Manchester 2-3 a San Siro, 0-4 al ritorno, e quest'anno come sappiamo 0-1 e 0-0. Quindi quattro inglesi consecutive che hanno giustiziato il Milan. È vero che c'è uno era Werder Bremen. È vero che quello di quest'anno è stato veramente giocato sul filo del rasoio e che non ci sono certamente colpe da distribuire per ieri sera all'impegno della squadra, poi del rendimento di Ibrahimovic parliamo a parte, però è vero che questo comincia a essere una costante, cioè quando arrivano gli ostacoli alti il Milan, che pure 4 anni fa soltanto levò quel trofeo, si ferma. Sì, 4 anni non sono più degli indizi, ma sono evidentemente una prova, anche perché insomma il Werder Bremen non era un ostacolo altissimo, il Tottenham non può essere considerato un ostacolo altissimo perché parliamo della quinta squadra del campionato inglese, cioè di una squadra sì certo forte e importante, ma quasi digiuna a questi livelli di Champions League rispetto al Milan. E quindi io ieri sera ho notato che c'è stata qua da parte di tutti quasi la rimozione del lutto, nel senso che tutti hanno detto meritavamo noi, tutti hanno detto hanno fatto solo un tiro, cioè come se Milan fosse passato, e invece questa cosa non è accaduta. Cioè mi sembra, oppure ho sentito dire a qualcuno mentre gli cresceva il naso, ma tanto il nostro primo obiettivo è lo scudetto. Cioè parliamoci veramente chiaro e non prendiamo in giro nessuno, cioè il Milan che da 4 anni non fa strada in Europa è una profonda delusione, proprio perché il Milan, per la filosofia sia aziendale che sportiva del Milan, il palcoscenico più importante è e rimane l'Europa. E quindi questa è una delusione forte, una delusione cocente, una delusione che ha radici che evidentemente sono anche lontane, e a parer mio hanno anche una motivazione nell'allenatore, che era alla prima esperienza, quindi può essere scusato, ma sia l'anno scorso Leonardo che quest'anno Allegri, alla prima esperienza internazionale alla guida di una grande squadra di club, hanno avuto delle difficoltà. Io ho visto ieri sera Allegri che nel secondo tempo ha messo in campo Strasser, Merkel e Antonini. Io chiedo a tutti voi se la panchina del Milan ieri sera era una panchina di una squadra che può pensare di far strada in Europa. Secondo me no, e infatti non la fa. Certo, senza i Pirlo, senza gli Ambrosini e senza quei giocatori, senza gli Inzaghi che ieri sera sarebbe servito probabilmente come il pane, diventa più dura. Il Milan ha segnato, è la squadra che ha segnato di meno in 8 partite di Champions, e cioè solo 7 gol. Vado sempre avanti con le statistiche di Franco, così come il Copenaghen e il Manchester, che però il ritorno agli ottavi lo devono ancora giocare, e questo è un altro numero su cui riflettere. Però quello più significativo ancora è questo, perché arriviamo al punto dolente, che è Ibrahimovic. 23 partite di Coppa Campione, eliminazione diretta in carriera e 3 gol. Tutti e 3 l'anno scorso, 1-1 Stoccarda-Barcellona e 2-2 in Arsenal-Barcellona, tra l'altro proprio con l'Arsenal. Allora, evidente che a 29 anni compiuti, 23 partite e 3 gol, c'è un problema di compatibilità di questo giocatore con questo torneo. Stiamo parlando di un grande giocatore e non ne parleremo se non fosse un grande giocatore, certo. Però gli indizi anche qui sono ormai troppi per non fare delle prove, nel senso che comunque Ibrahimovic ha anche degli score molto molto bassi nei confronti diretti con le grandi squadre. Prova ne sia che ha segnato soltanto un gol, peraltro non influente, Juventus. Per il resto con la Juventus non ha mai segnato l'Inter al Milan, col Milan non ha mai segnato all'Inter, ha segnato un gol influente con la Juventus. Stiamo parlando, ripeto, di un grande giocatore, però è evidente che lui sente qualcosa, che c'è qualcosa che non va quando la competizione diventa di questi livelli. Io gli auguro di vincere le prossime 3 Coppe dei Campioni, ma se le meriterebbe anche. Però fino ad oggi stiamo parlando di un giocatore che regolarmente sbaglia questi appuntamenti. Poi ci sarà una volta che Robinho non gli passa la palla, ci sarà un'altra volta che il Barcellona non è adeguato al suo gioco o lui non è adeguato al Barcellona. C'è sempre una motivazione, però lui va via dall'Inter. L'Inter vince la Champions League, cioè a questo punto c'è anche qualcosa nell'aria, perché ripeto, siamo un grande giocatore, però questi sono fatti, non sono più opinioni. C'è un altro dato che arriva sempre da queste statistiche che in prospettiva potrebbe segnalare un altro piccolo caso, non dico di incompatibilità, però un motivo di riflessione. Anche Pato in Serie A ha una media gol di 1 in ogni 2 partite, cioè ha segnato esattamente 47 gol in 94. In Champions ne ha segnati 2 in 14. E allora anche qui mi segnala un cuore rossonero, tra l'altro, che comincia a esserci qualche motivo di riflessione. È molto più giovane, i numeri sono più sottili, però. Sì, anche questo è vero. Credo che Pato abbia molte più possibilità poi di capovolgere queste statistiche. Certo. Però il dato pesante è quello di Ibrahimovic, non c'è alcun dubbio. Senti, l'ultimo numero è una richiesta di Omar, un ascoltatore di Bologna, che dice: chissà se Tavelli ci può dire se ha fatto più audience l'altra sera Shakhtar Roma o Barcellona Arsenal. Ovviamente non posso dire, non so, ma naturalmente non ve lo posso dire. Però lo so. Lo sai, ma non ce lo puoi dire. Se lui mi chiede lo sai, io la mia risposta è sì. Eh sì, e la risposta, questo però ce la fa immaginare così a spanne. Come? A spanne ci aiuta a immaginarla la risposta. Sono cose che rimangono tra noi, molto sì, bene. Ci possiamo sentire in un altro momento. Grazie Fabio. Grazie, buon pomeriggio, anche perché tra l'altro stava per crollare la linea. Noi andiamo a sentire come va sulle strade. Tavelli sbaglia sui fatti, scrivono ascoltatori. Ibra ha segnato e fatto vincere il derby di andata. Sì, secondo me gliel'ha fatto vincere Materazzi, regalandogli quel calcio di rigore. Però è vero che ha trasformato un calcio di rigore in quel derby. Non vi dico le mail stamane e i messaggi e le richieste di intervento in diretta. Io partirei dalla più sintetica, che è firmata Walter e che arriva da Carrù, deliziosa patria del bollito in provincia di Cuneo. Walter scrive: ma sarà stata colpa di Seedorf anche questa volta? Direi che la domanda non è affatto male, e visto che ieri sera Seedorf a fine partita non se l'è sentita non è vero che non se l'è sentita, si è presentato al microfono Rai sul campo, ma mentre gli si formulava la domanda ha capito che non ce l'avrebbe fatta, perché era talmente dispiaciuto da essere arrivato alla commozione, e quindi gli stavano uscendo delle lacrime, è scappato via, e per una volta uno che scappa da un microfono lo fa in maniera non solo significativa, ma molto umana, molto toccante. Non come quelli che poi ogni tanto si fanno invitare in certi studi, cioè accettano gli inviti e poi improvvisamente scoprono che quello studio non è particolarmente loro congeniale. Sentiamo che cosa ha detto poi, in un secondo tempo, una volta ritrovato il suo equilibrio emotivo. Non siamo riusciti a finalizzare, è un grande peccato perché il Milan oggi ha fatto vedere quello che è capace di fare a livello di gioco, a livello di unione, giocando fuori casa contro un avversario con tutto rispetto inferiore a noi, però che ha fatto la differenza con una giocata fuori casa, insomma, dove abbiamo peccato probabilmente di tenere lo zero, no? Vabbè, io sento molta rabbia e molta frustrazione per il fatto di non essere riuscito a portare a casa una vittoria che sarebbe stato meritato stasera, però questo è il calcio. Champions League sono due partite, la prima partita credo che non abbiamo espresso il massimo di noi stessi, anche se nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, ma proprio nel secondo tempo poi abbiamo preso un contropiede che ha fatto sì che oggi siamo fuori. E questo era Clarence Seedorf, che certamente ha ben poche responsabilità per l'eliminazione di ieri sera. Anzi, Daniele da Venezia osserva giustamente: l'anno scorso però passarono ai quarti quattro squadre prime e quattro seconde classificate, quindi non è una regola così certa, no Daniele? Intanto non è una regola, ma insomma non è così automatico, questo no. Però è vero che, approfittando del fattore campo, hanno passato il turno tre sfavorite su quattro, perché comunque tra Milan e Tottenham, adesso se ci riportiamo ai momenti del sorteggio, io ho visto, eletto e sentito fanfare al momento in cui il Tottenham fu accoppiato al Milan, le stesse che ho sentito, che sentì quando si seppe che la Roma giocava con lo Shakhtar Donetsk. Inter-Bayern fu presentata fin dall'inizio come una partita certamente più equilibrata, con l'Inter favorita, ma più equilibrata anche perché, se non altro, era la rivincita. Intanto il Milan di fine dicembre, l'Inter di fine dicembre non era sto granché, ma era in ogni caso la rivincita di una finale appena giocata, e quindi era giusto un po' più di cautela. Mi pare che sia Schalke col Valencia, sia Shakhtar con la Roma, sia Tottenham col Milan ieri sera abbiano comunque fatto valere il fattore campo. E non dimentichiamo che se per caso il Milan ieri sera avesse comunque trovato il gol dell'1-0 per arrivare ai supplementari, li avrebbe giocati in campo esterno, che comunque non è un grande vantaggio da nessun punto di vista. Ciro ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buon pomeriggio, dottor Catancini. Dica. Vorrei fare una semplice considerazione. Alla luce, diciamo, dei risultati degli italiani nelle coppe, sia di ieri e poi di quello che sarà l'Inter della settimana prossima, secondo me il punto più basso del calcio italiano è ancora lontano dall'essere toccato, perché secondo me manca la considerazione da parte di tutti, addetti ai lavori, tifosi, squadra, che ormai siamo un calcio di Serie B, e a livello organizzativo, a livello di tutto, e quindi quando riusciremo a rendercene conto è da lì solo che possiamo partire per andare in avanti. Perché quando ci furono i sorteggi sentivo: beh, abbiamo preso il Donetsk oppure il Tottenham, non è il Chelsea. Sì, ma noi siamo le squadre italiane e non abbiamo più quel peso specifico che avevamo quando dominavamo in Europa e diciamo anche nel mondo. Adesso abbiamo un peso specifico minore e purtroppo dobbiamo fare necessità e virtù. Vorrei una sua considerazione. Grazie. Ma, sì, adesso senza drammatizzare troppo, perché comunque l'ultima edizione di Coppa dei Campioni l'ha vinta l'Inter, tanto per cominciare. Quest'anno penso che sarà molto, ma molto più dura, ma in ogni caso la profondità e la dimensione della crisi tecnica la dà il fatto che in Europa League, arrivederci grazie, solo il Napoli è sopravvissuto alla fase eliminatoria. In Coppa Campioni al momento sono fuori due squadre su tre, quindi questa crisi di risultati in Europa in ambito di club si somma alla figura incredibile della nazionale lo scorso anno ai mondiali sudafricani, quindi è proprio un movimento che è in crisi. E poi lei dice è in crisi alla radice, è in crisi per tanti altri aspetti, che non sono soltanto economici, ma sono soprattutto di comportamento, di stadi, di abitabilità di stadi, di modo di fruire del calcio, di ultras in continuo aumento, o forse non sono loro che aumentano, ma sono gli spettatori normali che si sono lentamente arresi, quindi la presenza di quegli altri sembra ancora più dominante di quanto non fosse. Allora, se mettiamo insieme tutto questo, temo proprio che lei abbia ragione. Claudio, chiamato da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Io volevo riagganciarmi un pochettino a quello che diceva il signor Ciro poc'anzi, dicendo che quello che balza all'occhio guardando un po' di partite, tanto ce ne sono quante se ne vuole tutte le sere, è la corsa. Io credo che i calciatori italiani corrano molto poco, ma almeno la mia impressione è questa, guardando partite di calcio straniero o guardando anche ieri sera come i difensori del Tottenham anticipassero a centrocampo o davanti all'area gli attaccanti del Milan senza fare fallo, semplicemente perché gli arrivano davanti e gli saltavano davanti prendendo il pallone. Allora, il calcio è uno sport, se si vuole, abbastanza semplice, di corsa e di calcio. Se uno non sa correre, non sa calciare, io credo che nel calcio, gioco del calcio, faccia poca strada. Lei cosa ne pensa? Ah, io penso che ieri sera il Milan abbia corso quanto il Tottenham, nel primo tempo ha corso di più e comunque ha sempre mantenuto l'iniziativa, nel secondo tempo ha avuto una flessione che sembrava anche fisica e che è durata un quarto d'ora, una ventina di minuti iniziale, ma poi alla fine ha ripreso in mano l'iniziativa, che poi ci siano state le fasi di gioco in cui loro sembravano, come dice lei, meglio piazzati, più cose, e quindi si facevano trovare più pronti, ma io credo non solo per ragioni atletiche, credo perché mancava ispirazione da parte del Milan. Io ho letto stamattina questo titolo della Gazzetta dello Sport, fuori migliori, insomma, mi è sembrato, adesso non dico raccapricciante, ma certamente un po' tanto esagerato, perché i migliori veri ti bombardano e ti mettono i paletti e costringono come minimo il portiere avversario ad essere migliore in campo. Ora, ieri sera Gallas ha salvato una palla sulla linea su un tiro tra l'altro rimpallato, ha fatto una buona parata Gomez su una punizione di Ibrahimovic che però già dalla rincorsa poteva andare soltanto da quella parte. Dopodiché il Milan ci ha sempre provato e di questo viene valato atto, ma che abbia costruito qualcosa che autorizzasse il fatto di un titolo così vistoso e così parziale, insomma, mi sembra di no. Stefano da Bergamo scrive: ha visto come era ben verniciato il campo ieri sera? Sì, devono proprio avere dei bei coloranti in Inghilterra, a Londra, come nel nord Europa, diciamo pure come nel resto del mondo, se parliamo di quello, sicuro. Alessandro Milano, buongiorno. Sì, buon pomeriggio, un saluto a lei radioascoltatori. Io vorrei far notare questa cosa, oltre a tutte le statistiche che ha prodotto, io vado solo a vedere il Milan nelle coppe, non salto mai una partita all'88, vado con mio figlio adesso. Allora, nelle ultime 8 partite casalinghe che il Milan ha giocato a Milano in coppa, quindi 4 l'anno scorso, 4 quest'anno, di fronte al proprio pubblico che viene a vederti facendo anche dei sacrifici economici o comunque di viaggio, di quello che è, allora il Milan ha fatto 4 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria. Cioè, questa è una cosa. Allora, anche partite come quella con l'Ajax, dove il Milan era qualificato, stiamo giocando in Europa, stiamo giocando la Coppa dei Campioni, non fare quelle partite lì, altrimenti dillo, scrivilo prima, gli faccio giocare i giocatori della primavera, così gli do la contentezza di giocare in Champions, e la gente decide se venire a vedere una partita di quel genere. Questo, allora, è una cosa, io non riesco a capire che cosa è successo al Milan in queste. Poi non parliamo di Milan Werder Brema, che il Werder Brema poi è arrivato in finale di Coppa, quindi voglio dire che dove vincevi 2-0, comunque il calcio italiano è sicuramente calato, è diventato mediocre, è sempre difficile ma è diventato mediocre, e quindi penso che il Milan e tutte le squadre ne paghino le conseguenze, perché quello che accade in Coppa, ora si può uscire, quando siamo usciti con l'Arsenal, contentissimo, applauso, perché la squadra ha giocato 0-0 là, 2-0 qua ai quarti, va bene, sono contento, ma non quello che poi è avvenuto dopo in queste ultime 8 partite in casa. Alessandro, non credo che l'abbiano fatto apposta, no? Perché da come la mette lei sembra che sia una scelta quella di perdere in casa, oppure di comunque di essere minimalisti nel, non so, nella scelta di formazione o nell'atteggiamento in campo. Credo che il livello sia quello. Io credo, cioè, se la vogliamo mettere in termini un pochino più storici, nel 2007 il Milan ha vinto una coppa che non gli ha fatto bene, nel senso che ha pensato, ma questo è un vecchio discorso, no? Che ha pensato di poter sopravvivere ancora con una squadra che invece già allora avrebbe dovuto essere rinnovata profondamente, però l'ha vinta, e l'ha vinta contro i suoi stessi pronostici, ed è chiaro che i generali, con tutte quelle medaglie sul petto, a quel punto sono rimasti più legati di prima, e il rinnovamento si è fatto aspettare. Non è un caso, cioè, quando allora, non solo io per carità, ma per esempio anch'io sostenevo quella tesi, sembrava un disfattista o un antimilanista. Poi sono arrivate quattro edizioni successive di Coppa Campioni in cui il Milan è andato fuori come una ramazza al primo turno eliminatorio, al primo turno a eliminazione diretta, e quindi evidentemente un po' di fondamento quella tesi l'aveva. I migliori sono ancora dentro, fa notare Luciano Labiella, e il riferimento è ovviamente al Barcellona. Volevo coinvolgervi sin da oggi in una iniziativa per la prossima settimana. Beh, immagino saprete che il 17 marzo, e cioè il prossimo giovedì, verrà festeggiato il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Allora, perché non dedicare quel giorno una puntata ai, ovviamente tutta Radio 24 avrà una programmazione speciale, ma perché non dedicare il nostro ambito, questo appuntamento a rivivere il percorso, le emozioni, tutto quello che ci hanno regalato alcuni dei più grandi personaggi della storia dello sport italiano. La storia dello sport italiano non ha 150 anni, diciamo che ne ha un centinaio o poco più, però mi sembra che, visto che si parla di Unità d'Italia, mi sembra che siano stati tanti personaggi che nel nome dello sport quest'Italia l'hanno unita. Non lo so, io posso pensare a Enzo Ferrari, posso pensare a quei 200 metri di Berruti all'Olimpico quando vinse l'Olimpiade, e tutta l'Italia scoprì questo o comunque esplose di gioia, e poi l'82 di Bearzot, ma penso anche a, non so, a gente come Gustavo Töni. Scoprimo che era Italia anche l'Alto Adige, forse, no? Comunque alcuni di noi lo scoprirono allora fino in fondo, quando Töni nei primissimi anni 70 cominciò a vincere Olimpiadi e Mondiali sugli sci. Coppie Bartali, ma chissà se Coppie Bartali hanno più unito o più diviso. Insomma, la puntata di giovedì 17 marzo sarà dedicata a questi personaggi e a riascoltare tutti i frammenti vocali, insomma, i più significativi che sarà possibile di loro, poi con un'intervista a un grande personaggio. Ma io vorrei anche che voi sin da oggi, e magari fino a non oltre il 16 mattina, e cioè fino a martedì sera o mercoledì, ci inviaste all'indirizzo di posta elettronica le vostre mail per segnalare chi è stato, secondo voi, in tutto questo tempo, chi è stato il personaggio sportivo che più ha unito l'Italia, che più ha avuto una valenza di unità per l'Italia. Ovviamente nomi, e magari un nome, più nomi, e magari motivazioni. Poi non romanzi, se è possibile, perché poi leggerli e metterli in fila non sarà semplicissimo. Va bene, fin qua siamo arrivati. Adesso che cosa c'è? Beh, c'è per esempio il fatto che Borriello stamattina ha detto: trovo vergognoso che in questo momento si cerchi di trovare in me l'unico capro espiatorio di una situazione difficile. La mettono tutti se polemiche che io non ho mai fatto, compresa quella con Totti. Da quando sono a Roma credo di essere un esempio di serietà. Ma io non so chi ne abbia fatto un capro espiatorio. Magari qualcuno, come nel mio caso, si è limitato a far notare che ha sbagliato un rigore dopo averlo rubato a Pizarro, no? Come già aveva provato a fare a Lecce, solo che là non c'era riuscito, infatti Pizarro il rigore l'ha segnato, si è mangiato almeno un altro gol di testa molto molto facile, e per uno che era stato beccato un paio di settimane prima, escluso da Ranieri, beccato in panchina a dire: ma come faccio a star fuori io che ho segnato 25.000 gol? Beh, insomma, diciamo che la cosa aveva avuto un, un discreto risvolto comico, ecco, se vogliamo. Questo è Boriello. Stamattina ha parlato Materazzi, allora direi che per analogia intellettuale potremmo sentire anche questo frammento. Mi viene da ridere, però dovrà perdere mezza giornata per andare a prendere un buon caffè a Napoli, penso. Lo faccia, tanto penso che quando uno è pulito, alla fine il tempo è galantuomo. La frase di Materazzi era riferita alla convocazione che il presidente dell'Inter Moratti ha ricevuto da parte dell'ufficio inchieste del FIGC. Con tutto il rispetto per Palazzi, ha detto Massimo Moratti, che giustamente fa quello che deve fare, è ridicolo che l'Inter nella mia persona debba presentarsi a questa cosa. Gli ha risposto Andrea Monti stamane, direttore della Gazzetta dello Sport, scrivendo: con tutto il rispetto per Massimo Moratti, la sortita non è tra le più felici. Questa cosa è un'istruttoria che nasce dall'esposto della Juventus sull'assegnazione dello Scudetto 2006, l'istanza chiama in causa l'Inter e chiede risposte da quasi un anno. La convocazione da parte del procuratore federale quindi non ha nulla di ridicolo, è semplicemente doverosa. Il presidente ha sempre definito la società nerazzurra estranea a ogni maneggio, non esiste occasione più serie per ribadirlo e per rispondere agli interrogativi che alcune intercettazioni emerse nel processo di Napoli hanno sollevato. Salvatore ha chiamato da Napoli, buongiorno. Senta, posso dirle il mio personaggio prima? Sì, sì. Sì. Uno campione, poi basta, perché sennò ci roviniamo la settimana prossima. Bartali. La dica. Bartali quando vinse il Tour de France. Bartali quando vinse il Tour de France 48? Certamente sì. Certamente sì, forse è l'esempio principale di improvvisa unificazione dell'Italia, oltretutto in un momento di vero pericolo invece di divisione, perché c'era stato quel giorno, o il giorno prima, non ricordo bene, l'attentato a Togliatti e quella maglia gialla di Bartali salvò una situazione molto ma molto complicata nel paese. Grazie Salvatore. Adesso una piccola provocazione. Sì. Secondo me, se l'arbitro era italiano, ieri Milano vinceva. Si era comportato così bene con Bartali che questa sinceramente se la poteva risparmiare, eh? Capisco che l'effetto, certo, infatti voglio dire che abbia riattaccato al volo era inevitabile. E d'altra parte i Mazzari, piccoli Mazzari crescono, è inevitabile che sia così. Volete sentire cosa ha detto ieri Corioni, che ha strabattuto ogni record, perché due giorni fa, diciamo che il presidente del Napoli De Laurentiis c'era andato giù abbastanza greve, però a parer mio con una discreta eleganza e comunque con qualche fondatezza. L'aveva subito incalzato Zamparini, andando ovviamente oltre, tracimando col buon gusto che gli si conosce. Sentite ieri Corioni, no? Per dire, Corioni presidente del Brescia, per dire qual è l'escalation quando i presidenti cominciano e ripeto per l'ennesima volta che la tessera del tifoso è un'iniziativa discutibile, la tessera del presidente secondo me dovrebbe essere obbligatoria. Il Brescia quest'anno è stato danneggiato dagli eventi, ha detto il suo presidente Corioni, e se a fine campionato gli errori arbitrali si equilibrassero, il Brescia potrebbe addirittura vincere il campionato. Ora, poi naturalmente se qualcuno gliene chiederà conto, lui dirà che scherzava, che era una battuta, perché sono sempre battute, no, alla fine. Diciamo che come battuta questa ha scarse probabilità di far ridere. Riccardo Milano, buongiorno. Eccoci, buon pomeriggio, signor Garanzini, buon pomeriggio a tutti. Io sono milanista, ma non come l'ascoltatore di poco fa, che sosteneva che se l'arbitro fosse stato italiano mi sarebbe passato. Vabbè, diciamo che è un po' di fantascienza, ogni tanto fa un po' sorridere. Va bene, dunque io volevo solo difendere un pochino Allegri, perché Fabio Tabelli, che peraltro stimo moltissimo, forse è stato fin troppo severo con lui quando ha detto che sul finale di partita ha fatto entrare il nostro Merkel con Strasser e Antonini. Beh, sicuramente Tabelli ricorderà, magari in quel momento non gli è sovvenuto, che noi avevamo fuori Pirlo per infortunio, Ambrosini per infortunio, Gattuso per squalifica, che peraltro si è meritato, Van Bommel purtroppo non può giocare alla Champions League, quindi non è che poteva scegliere molto di meglio dal mazzo. Tutto qua. Qualcosina avevo aggiunto, in effetti lei ha ragione. Diciamo che Gattuso purtroppo no. Gattuso purtroppo no, perché Gattuso se l'è cercata e credo che ieri sera, quando Boateng ha cominciato ad accusare problemi, a parte che Gattuso avrebbe probabilmente giocato l'intera partita, anzi certamente, però come minimo quando Boateng, diciamo un po' prima di metà ripresa, ha cominciato a girare un pochino in folle o ad avere problemi abbastanza seri di tenuta, Gattuso sarebbe servito, però lì è, non è causa di qualcuno, lì è solo colpa sua, come è solo colpa di De Rossi quando la Roma o la squadra in cui De Rossi andrà a giocare dopo la Roma, quando in una prossima eventuale avventura in Champions League, che se rimane, cioè se rimane alla Roma potrebbe anche non essere, anzi secondo me non sarà l'anno prossimo, comunque si farà le sue 3, 4, 5 giornate di squalifica a sua volta per quella gomitata dell'altra sera. Qualcuno chiede l'indirizzo indirizzo a cui mandare per l'appunto questi nomi, insomma, a cui comunicare queste vostre scelte, è a tempo di sport @radio24.it. Questo è l'indirizzo di posta elettronica. Lo sai che palle il 17 marzo, scrive Carlo, è benissimo. Lei non ha che da sintonizzarsi su qualche altra emittente oppure investire meglio il suo tempo libero. Non nessuno la costringe a questi ascolti infami, no? Visto che per un giorno ogni 50 anni si parla magari di unità d'Italia. Rocco da Potenza, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Una sola domanda: da ex calciatore di prima divisione, vedendo giocare il Milan ieri sera e vedendo giocare il Barcellona, è dalla notte al giorno la differenza. Per carità, il Milan ha fatto una bellissima partita, manca la qualità al centrocampo che dà leggermente la palla, manca chi la butta dentro, perché Ibra è un mese che non va. E Ibrahimovic è stanco, e però questo lo si vede di più in campionato. In Coppa mi sembra sempre talmente in linea con il suo passato che in Coppa secondo me non colpisce più di tanto. Colpisce il fatto che invece mi ero dimenticato l'orologio e che siamo leggermente oltre, chiedo scusa, per ascoltare gli aggiornamenti di strada e autostrada. Roberto da Fano suggerisce Panatta. Beh, niente male neanche questa indicazione, perché se torniamo alla finale di Coppa Davis del 76, direi, visto anche che cosa c'era in Cile allora, credo che sia un'altra ottima indicazione. La rubrica il 10 marzo di Nicola Filippone. Sembra ieri. 10 marzo 1968. Il Bologna vince il derby emiliano battendo per 3-1 la Spal a Ferrara. Il primo gol porta la firma della bandiera rossoblu Ezio Pascutti. L'ala sinistra friulana, specializzato nei colpi di testa in tuffo, realizza così il suo 130° e ultimo gol in Serie A. Un bottino notevole, raggiunto senza tirare mai rigori o punizioni, e che sarebbe potuto essere ancora più ricco se un logorio da infortuni non lo avesse indotto a lasciare il calcio a 31 anni. La prima rete nella massima serie risale al 1 gennaio 1956, un gol con cui l'allora 18enne Pascutti, lanciato nel Bologna da Gipoviani, aveva contribuito a un successo per 3-2 in casa della Nerossi Vicenza. Un vero grande attaccante, un vero uomo d'area Pascutti, che mi pare sia stato eguagliato in termini di gol bolognesi proprio domenica scorsa da Di Vaio, e credo che Di Vaio possa andare molto fiero, oltre che di quello che sta facendo, di aver eguagliato, e evidentemente lo supererà, di avere per il momento eguagliato una autentica gloria del calcio bolognese e un grande attaccante come fu Ezio Pascutti. Roberto, chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione che ascolto quasi sempre appena posso. La mia considerazione era legata alla partita di ieri del Milan col Tottenham. Io, relativamente proprio alla partita, secondo me quello che è mancato è stato forse il completamento del movimento dei tre attaccanti nell'area piccola, per fare in modo che su eventuali rimpalli e altre cose, diciamo le azioni classiche del Pippo Inzaghi, La seconda cosa che così ho notato è che nel secondo tempo hanno insistito nel fare azioni di attacco finalizzate al gol, ma sempre con passaggi finali in area, cosa che con una squadra per 8-11 schierata davanti al portiere diventa estremamente complicato. Non ho visto mai tiri 25-30 metri, proprio per dire provo a tirare con delle punte che finalizzavano in centro all'area piccola, in modo tale che se anche il portiere parava, l'attaccante di rincorsa poteva andare a far gol. Ecco. Sì, vorrei sentire un suo parere. Ma il mio parere, guardi, è che ci sono state poche occasioni. Il mio parere è che ieri sera pochi giocatori, cioè nessuno censurabile per impegno, solo tre all'altezza della serata, secondo me. E in ordine di peso, direi Seedorf, Thiago Silva e Abate, che si sta, secondo me, confermando come un... adesso non dico terzino, sennò poi arriva le querele, ma come un esterno destro basso, va bene, esterno destro basso con licenza di diventare ogni tanto alto, di qualità perché cresce, perché migliora nel tempo, perché acquisisce personalità anche in ambito internazionale, quindi questo è un dato rilevante. Tutti gli altri secondo me hanno dato meno di quello che ci si può, no, non sul piano dell'impegno, ripeto, ma della qualità, meno di quello che ci si poteva aspettare da loro. Continuano ad arrivare voti, segnalazioni, ok, ma preferirei, ripeto, che tutto questo avvenisse poi all'indirizzo mail che vi ho dato prima. Se non vi siete divertiti abbastanza con la frase seria peraltro di Corioni, se non vi è bastato Materazzi, se non vi è bastato Boriello, c'è il CASMS, il famoso CASMS, che è questa emanazione del Ministero degli Interni, Comitato di Analisi per la Sicurezza sulle Manifestazioni Sportive, che ha accolto con favore, leggo da una notizia d'agenzia appena battuta, ha accolto con favore l'iniziativa proposta dal Bari per la gara Milan-Bari del 13 marzo, cioè di domenica, quando potranno recarsi a San Siro, oltre ai tifosi fidelizzati, che immagino siano quelli da tessera del tifoso, anche altri 200 tifosi selezionati sotto la responsabilità della società pugliese. Luigi Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Dunque, un argomento forse un po' fuori dall'attualità, però mi chiedevo, siccome sono convinto da sempre che il male profondo del calcio italiano siano le curve, intese come tifosi organizzati in curva, mi chiedevo se secondo lei nel nuovo stadio che la Juventus sta costruendo la Juventus riuscirà a debellare questo male profondo e riusciremo finalmente ad avere uno stadio in cui non c'è una curva organizzata e in cui la sicurezza è fatta da steward della società. Così, forse un argomento un po' fuori dall'attualità, però. No, tutt'altro. Questo purtroppo è sempre l'attualità ed è una bella domanda. Io credo che non sarà facile, credo che sarà una bella fatica, perché ormai gli ultra considerano il calcio cosa loro, considerano lo stadio un territorio di pertinenza e i conti con loro bisogna farli, non sarà semplicissimo, e da questo punto di vista sia chi fa stadi nuovi come la Juventus, sia chi ha intenzione di farne come per esempio l'Udinese, merita un sacco di auguri come minimo, oltre che degli appoggi. Marcello da Milano fa notare, bravo Di Vaio, ma lui le punizioni e i rigori li calcia, e in effetti è vero, perché ho tutto rispetto per Di Vaio, ma insomma avere guagliato Pascutti significa le punizioni, pazienza, io le punizioni non sarei così severo, ma insomma i calci di rigore, perché un giorno o l'altro scorporeremo tutti i calci di rigore che hanno segnato Baggio, per esempio, che ha segnato Totti, che ha segnato Del Piero, e poi andremo a vedere, no, in rapporto ad altri grandi canonieri del passato, quali sono poi i numeri reali, non che sia reato segnare un calcio di rigore, ma insomma diciamo che è leggermente più facile che di altre situazioni. Chiuderei con Leonardo, con un'analisi mi pare sul calcio, sul momento del calcio italiano e non solo. Oggi ci troviamo con l'Italia anche a livello di rendimento sportivo molto al di sotto di questo che è la nostra possibilità. Una cosa porta all'altra, abbiamo l'Inter che deve ancora giocare il ritorno degli ottavi e non abbiamo più altre squadre italiane in Europa. Voglio dire, è un segnale che secondo me non è solo una questione di rendimento sportivo calato, perché sinceramente se guardiamo le squadre possiamo competere con chiunque. Credo che anche questo umore, questa cosa che succede, questa è una cosa che dà fastidio a tutti. Io mi auguro che gli enti veramente riescano ad arrivare a una fine e che sia un momento di ripartire anche a livello di morale, anche a livello per tutti noi, perché deve finire. Era Leonardo, grazie a Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.